Sono Alessandro Martinelli, consigliere delegato di Fondazione Comunità Solidale. Questo ente, che noi definiamo un po' il braccio operativo della dimensione Caritas, della chiesa locale, ed è un ente che si occupa davvero a 360 gradi del tema dell'accoglienza, riferita alle persone senza dimora, ma riferita agli alloggi, riferita a progetti di inclusione sociale. Ma gli ospiti che si rivolgono alle nostre strutture ovviamente, come dire, chiedono casa. In questi mesi non è stato semplicemente un offrire il posto letto, ma riuscire a comprendere che cosa voglia dire casa. I primi mesi sono stati dei mesi adrenalinici, dove tutto sommato la novità dava la forza di poter riuscire a costruire giorno dopo giorno, integrandosi a vicenda e davvero cercando di riassestare tutto il bilanciamento tra ospiti e operatori. E nello stesso tempo, però, tutto questo poi, finita la parte adrenalinica, si è trasformato anche in momenti davvero di difficoltà. Il fatto stesso di modificare la struttura di accoglienza da rifugio notturno a un'accoglienza 24 ore su 24 ha creato ovviamente delle difficoltà dal punto di vista proprio gestionale, per cui la presenza degli operatori con un numero di ore maggiore, il riuscire a costruire dei momenti di socialità all'interno delle strutture e poi alcuni elementi pratici come dire, la preparazione dei cibi, del pasto, della cena. Il fatto di rimanere all'interno delle strutture, per esempio 24 ore su 24, ha da un certo punto di vista acuito anche le differenze, per cui le persone abituate a una sorta di grande libertà o a qualche, come dire, ospite legato a delle dipendenze, questo elemento ha messo in crisi eventualmente qualche altro processo di relazione con gli ospiti, con gli altri ospiti presenti. Credo che noi non possiamo non sottolineare una grande disponibilità da parte degli operatori, davvero a reinventarsi in questo processo per cercare di riuscire a trasformare gli ospiti in autentici, come dire, abitanti del luogo, non semplicemente degli ospiti, ma dei costruttori di nuove relazioni all'interno delle strutture. E un aspetto importante da sottolineare sia stata anche la rete che tra enti e questi mesi ci hanno permesso di solidificare. E la rete che è da sempre esistente, ma nei mesi di difficoltà è stata ancora più importante. E sto pensando per esempio all'opportunità di ricevere i pasti all'interno delle nostre strutture, l'opportunità di alcuni enti di essere comunque presenti per dei tentativi di socializzazione. Sto pensando alla presenza del GRIS dal punto di vista sanitario e anche per tentare di riuscire a spiegare agli ospiti che cosa stava accadendo. Per cui credo che la rete abbia, da un certo punto di vista, dimostrato il suo senso e nello stesso tempo ci abbia aiutati a capire che senza rete oggi davvero è difficile che ognuno di noi possa farcela.